e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Give me five. All right. Ow. Deborah, dammi il 5 così ci vedo. Gli amici su Facebook, andiamo. Ciao, buongiorno a tutti. È un gesto, mi piace il 5 perché generalmente lo usiamo per congratularci con altre persone, per comunicare un po' la nostra soddisfazione, la nostra approvazione, ma nel nostro caso, cari amici, non è tanto il gesto a fare la differenza quanto il numero. Numero 5, un numero più volte associato al nostro benessere, ma non voglio anticiparvi di più, se non che dopo andremo a sederci sui banchi della nostra scuola di risparmio, dove speriamo di non prendere 5. No, 3. Va bene? 3 perché spezzetterò il nostro approfondimento oggi in 3 grandi macro aree. Così facciamo una cosa un po' più leggera, perché comunque parlare di temi di risparmio, di mercati finanziari in questo momento della stagione fa caldo. Esatto. Allora, che cosa ho fatto? Prima parte ci dedicheremo a questa effervescenza che c'è da qualche giorno sul mercato obbligazionario. Le obbligazioni governative sono un po' nervose e quindi prima parte dedicata a un approfondimento con un esperto su questo settore. Dopodiché vi presenterò una nuova community in cui si parla di educazione finanziaria, fondata da due giovani giovanissimi. Si chiama Tasche Bucate, il che è tutto un programma, per cui un po' come le nostre. Esatto. E poi terza parte invece vi inviterò a leggere un libro, anzi vi suggerirò di portarlo sotto l'ombrellone, un romanzo, un noir. Dove però si parla anche in questo caso di mercati finanziari, di tutte queste dinamiche un po' complicate, però con un linguaggio più fruibile. Lo ha scritto un giovane classe 1984, Nicoletta. Nascono anche quelle in quegli anni. Pazzesco, guarda, mamma esatto. Mia. Si chiama che Valerio vergogna. Baselli, vi presenterò questo libro che si intitola Tutto quello che non serve, pure anche un romanzo porto a scuola di risparmio. Oggi pensa un po', ma quante ne sappiamo? Piatto ricco, mi ci ficco, andiamo. Se fossimo in grado di assicurare a ognuno la giusta dose di nutrimento e di esercizio fisico, elimineremmo la gran parte delle malattie. Ippocrate, 4° secolo a.C. Uno slogan perfetto per una campagna di prevenzione e modernissimo nei suoi 2000 anni. Ci siamo, eh? È rivoluzionario anche nella sua semplicità. Porta la firma, l'abbiamo sentito, di Ippocrate, un personaggio che a noi piace molto perché è stato il primo vero medico della storia, quello che, pensate, ebbe l'intuizione e anche il coraggio di separare la medicina dalla religione e di considerare la malattia non come una punizione inflitta dagli dèi, ma piuttosto il prodotto dei fattori ambientali, della dieta, dello stile di vita. E una frase questa che ci è piaciuta e che abbiamo rubato, tratto si dice, dal libro della dottoressa Evelina Flacchi, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno, ma, Nicoletta e Deborah. Ma è con bel cinquone ci diamo. Allora, intanto la presento per bene, anche se la dottoressa Flacchi è molto conosciuta, è un volto noto, è specialista in scienze dell'alimentazione, è presidente della Fondazione Italiana per l'Educazione Alimentare, fa parte tra l'altro del direttivo della Società di Prevenzione Cardiovascolare e oggi è qui come autrice della dieta del 5, per questo abbiamo aperto con il 5, edito da Cairo editore. Intanto, dottoressa Flacchi, Ippocrate, beh, un po' il mio mito, ci aveva visto lungo e soprattutto in tempi non sospetti. Chissà cosa direbbe ora che siamo in un periodo della nostra vita in cui, lei lo scrive sul libro, l'Homo sapiens si sta trasformando in Homo obesus. Dottoressa Flacchi, sappiamo tutti che cosa mangiare, che cosa fare, eppure questi chili diventano in più, ci si appiccicano, non vogliono levarsi e vediamo intorno a noi sempre più persone in sovrappeso, quasi una epidemia. Secondo lei che cosa sbagliamo? Ecco, come dicevi giustamente, Ippocrate ci ha visto lungo. Oggi siamo in una situazione in cui un italiano su 3 è in sovrappeso e 1 su 10 obeso, nonostante si faccia da anni informazione e si parli di cibo anche da un punto di vista salutistico. Il problema è che è lo stile di vita da cambiare, perché il termine dieta in realtà non vuol dire restrizione, punizione, perché questo concetto allontana sempre di più a fare delle scelte sane. Certo. In realtà il termine dieta vuol dire stile di vita, quindi modificare alcuni comportamenti anche nell'alimentazione, consoni però alla nostra, alle nostre abitudini, al nostro lavoro, al nostro, alle nostre necessità fisiologiche, quindi valutare anche il beneficio che si può avere da una sana alimentazione nei confronti del nostro stato di salute e soprattutto per fare prevenzione. Ecco, questo è un concetto importantissimo. E il 5 ci aiuta. Il 5 ci aiuta, lo scopriremo, come diciamo, strada facendo, all'800 24 0024, un numero con cui potete intervenire nella nostra chiacchierata insieme alla nostra esperta, la dottoressa Flacchi, con cui parleremo naturalmente della dieta del 5 per darvi dei suggerimenti, delle indicazioni, ma per sottolineare un concetto che è molto chiaro ed è il messaggio un po' del libro che lei ha anticipato, dottoressa Flacchi. E cioè che l'alimentazione, il modo in cui noi ci nutriamo, deve essere qualche cosa compatibile con la nostra vita, con la nostra quotidianità. Insomma, non dobbiamo seguire quelle indicazioni che ci vogliono mettere a dieta, nel senso del termine che noi solitamente diamo a questa parola, e cioè una restrizione calorica oppure dei sacrifici, perché dopo poco abbandoniamo questi buoni propositi e ci ritroviamo a mangiare di più e si produce il classico effetto a yo-yo. Infatti tante persone si mettono a dieta, anche forse a volte senza averne necessità, mangiano pochissimo, stravolgono le loro abitudini alimentari, resistono, non vedono neanche più gli amici perché non possono mangiare la pasta, non possono bere un bicchiere di vino, no il dolce, poi resistono una decina di giorni, perdono qualche chilo, ma saranno i chili buoni, poi ne parleremo, e poi non ce la fanno più e si riprendono le abitudini di prima e i chili ritornano con gli interessi. Dottoressa Flacchi, anche questo è un aspetto, è una considerazione da fare, perché è un comportamento da evitare. Sicuramente, perché è basato su valutazioni scientifiche. Quando mettiamo il nostro organismo in uno stato di restrizione o di pericolo, perché così viene indicato per il nostro equilibrio, dobbiamo recuperare grasso, perché la funzione del grasso diventa quella utile a prevenire altri stati di malessere o di restrizione. Quindi induciamo l'organismo a crearsi della scorta. È proprio per questo che dopo diete squilibrate, dove mancano alcuni nutrienti essenziali o ipocaloriche restrittive, abbiamo questo effetto di maggior recupero di grasso rispetto alla partenza. Quindi no a sacrifici inutili e anche pericolosi per la nostra salute, esatto, per la nostra forma fisica. Quindi se volete imparare a rimettervi in forma, l'estate è un momento propizio, abbiamo suggerito anche dottoressa Flacchi nei giorni scorsi, per smettere di fumare, perché è una stagione che ci porta a cambiare il passo, e quindi approfittiamone per investire luce. È brava la luce per investire su di noi. Se volete quindi sapere come fare senza soffrire ma con garanzie di successo, 800 24 0024, e soprattutto raccontateci se e quante diete avete fatto e raccontateci soprattutto come è andata. Dottoressa Flacchi, iniziamo a dire perché il 5. 5 è un numero che ci piace, 5 sono le porzioni di frutta e verdura, più verdura che frutta, ma non solo. Perché questa, la dieta del 5? Questo numero è un numero che deve diventare un po' una nostra guida. Ecco, perché ho voluto dare un segnale, la possibilità di memorizzare facilmente alcune regole, anche perché nella numerologia il 5 vuol dire equilibrio, oltre ad essere collegato al pentagramma, alla stella 5 punte, l'emblema come emblema dell'uomo rigenerato. Quindi possiamo prendere spunto dal 5 per memorizzare alcune regole fondamentali di una sana alimentazione, quindi 3 pasti principali e 2 spuntini, quindi 5 passi nella giornata, ben calibrati ovviamente secondo le individuali esigenze. Dovremmo di base consigliare sempre una colazione da re, un pranzo da principe e una cena da povero, con le due merende a metà mattina e a metà pomeriggio, per creare una distribuzione equilibrata delle calorie giornaliere, per non avere questa fame smodata legata ai digiuni o a spazi troppo lunghi tra un pasto e l'altro, legata poi a funzioni metaboliche che si alterano. Quindi 5 pasti, 5 nutrienti sono essenziali nel nostro pasto, dobbiamo avere un equilibrio tra carboidrati, proteine, grassi vegetali, minerali, vitamine e fibre, perché l'organismo possa assumerne la quantità utile a far funzionare bene i nostri organi e a riequilibrare eventuali carenze. Allora, poi, noi ci fermiamo qui, abbiamo già dato un assaggio, direi un saluto della cucina, un piccolo antipasto di quello di cui parleremo, e naturalmente io vi invito a chiamare se volete sapere come ridurre il vostro girovita, ma anche normalizzare la pressione e il colesterolo, controllare i livelli di insulina che causano il grasso addominale. Nel percorso ideato dalla dottoressa Flachi, che è impegnata da anni a educare le persone a adottare una dieta nel senso lato del termine, ci sono 5 tappe di cui parleremo: la depurativa, la metabolica, l'AV, il total body e il mantenimento. Ecco che il 5 ritorna, ma adesso è tempo di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Ritorniamo di nuovo qui, se riuscite andate a prendere un centimetro, e noi siamo a vostra disposizione. Cuore e denari. L'umorista e scrittrice statunitense Erma Bombeck scrisse: "Oddio, se non puoi farmi dimagrire, fai almeno che i miei amici ingrassino." Mi è piaciuta troppo e volevo proporla agli ascoltatori di Cuore e Denari, però la soluzione non è così difficile, anzi direi che è a portata di mano e racchiuso in un numero, il 5. Ne stiamo parlando con la dottoressa Evelina Flachi, che proprio ha scritto un libro, La dieta del 5, ritrova la linea in 5 settimane. Dottoressa Flachi, per non sbagliare e incorrere in errori, ci prendiamo subito le misure, perché lei suggerisce un modo semplice, ma lo spiega così bene nel suo libro. Noi ne abbiamo parlato tante volte che le do subito la parola, così guida i nostri amici a misurare la circonferenza addominale, farlo senza barare, soprattutto senza possibili errori. Infatti oggi non è la bilancia l'unico strumento per valutare se siamo in sovrappeso o abbiamo dei chili da perdere, dei chili di grasso. Dobbiamo prendere il centimetro, misurare il nostro punto vita, 4 dita sopra l'ombelico, e metterci in allarme se noi donne superiamo gli 88 centimetri e l'uomo i 102. Questo perché il grasso addominale è un indicatore di rischio cardiovascolare. Oggi il concetto della prevenzione della sindrome metabolica è importantissimo, perché il grasso addominale è un organo che lancia dei messaggi ormonali, delle sostanze infiammatorie che purtroppo possono favorire diabete, ictus e anche tumori. Quindi la riduzione di questa zona del nostro corpo è molto importante da un punto di vista preventivo. Poi possiamo valutare anche l'indice di massa corporea, oltre al peso, agli esami e al punto vita. È molto facile da fare, possiamo prendere nota: il peso in chili diviso l'altezza al quadrato ci indica un numero che può farci intraprendere anche un percorso di controllo alimentare. Infatti la normalità, il range di normalità è tra 19 e 25, quindi se superiamo 25 siamo in sovrappeso, se superiamo l'indice di 30 siamo già obesi. Quindi non mettiamoci in restrizione o non facciamo sacrifici inutili se non rientriamo in questi parametri, piuttosto aumentiamo l'attività motoria, perché anche questo è importante considerarlo in uno stile di vita. Assolutamente sano. Ci vuole sicuramente uno stile alimentare, quindi impostare la distribuzione dei nostri cinque pasti in modo intelligente, in modo equilibrato e soprattutto diversificato, perché lei nel suo programma fa mangiare anche di tutto, suggerendo anche i famosi trucchi flacchi che ci suggerirà anche a noi, perché riesce a farci mangiare anche la carbonara, le lasagne, e ne parleremo subito dopo il GR. Ma dobbiamo abbinare anche l'attività fisica. Solo con l'attività fisica è molto difficile ridurre il peso, dottoressa Flacchi me lo conferma. Bisogna abbinare le due cose, sì, perché bisogna abbinare. Ecco, certo. Non possiamo pensare improvvisamente di diventare dei super atleti e di scrollarci i chili di dosso. Bisogna abbinare le due cose, ma si perdono più chili cambiando il nostro stile alimentare, poi con l'attività fisica si tonifica. Dottoressa Flacchi, abbiamo certo. Capito bene? Sì, dobbiamo tenere presente che per perdere un chilo vero di grasso dobbiamo diminuire 7000 calorie, quindi nell'arco magari di 15 giorni, di 20 giorni, o consumarle, quindi in relazione alle nostre abitudini uh-huh. e in relazione anche ai nostri eccessi. Quindi è un lavoro da fare, chiamiamolo così, dentro e fuori. Dottoressa Flacchi, nel leggere il suo libro mi sembra proprio una passeggiata, cioè tutto mi sembra molto chiaro e molto facile, soprattutto spiegato molto bene e poi da una fonte autorevole come lei. Allora ripetiamo, i cinque pasti della giornata, tre principali, lei ha detto, e due spuntini. Sì. Ok? Nei tre pasti principali che cosa dobbiamo mettere? I cinque nutrienti. Quindi facciamo un po' un esempio di una giornata tipo, così i nostri amici da casa proprio capiscono qual è un po' il messaggio del suo libro e il suo metodo. Certo. Ma di base io consiglio comunque l'equilibrio proprio per non avere gli effetti di recupero, come dicevamo prima. Quindi il trucco che potete anche leggere è quello di iniziare ogni pasto con un bicchiere d'acqua e delle verdure, e quindi nelle verdure rientrano minerali e vitamine e fibre, ecco, sì. Quindi già due dei nutrienti importanti. E poi inseriamo un pasto di carboidrati, che può essere o il pane o la pasta o le patate o la polenta, assieme a delle proteine, quindi cercare di scegliere tra i carboidrati che desideriamo consumare, non eccedere nelle combinazioni. Cioè non posso mangiare pasta e patate, anche se pasta e patate è buonissima. No, possiamo, io do, come vedremo con il 5, do il consiglio di fare durante il regime controllato 5 giorni di dieta e 2 giorni in cui facciamo un pasto libero, dove ci possiamo... diciamo distogliere dalla quotidianità, ecco, ricreare il nostro la nostra vita sociale e relazionale, perché brava. Io quando ho le amiche che si mettono in dieta mi dicono è colpa tua perché ne parli, ma io non dico mai ecco, non escono più, non si può andare a prendere un aperitivo, non si può mangiare questo, non si può io rimango senza amiche. Non sta parlando di me, dottoressa Flacchi, ecco, io ho ridotto un po' il vinello bianco, ecco, dottoressa Flacchi, io ho bisogno delle amiche con cui andare ogni tanto a mangiarmi una pizza. Se invece nella sua dieta, posso chiamarla così, nel suo percorso, ci sono questi 2 giorni con un pasto libero. Fantastico. Quanto libero, ci scrive Filippa Oreggi, che regia la parte tecnica, che metterò allora a dieta Flacchi. Sì, i suoi standard, guarda, sono un po' originali. Ecco, quanto libero, dottoressa Flacchi, così io guardi che Filippa Oreggi me lo curo, adesso me lo diciamo cucino reality, un po', esatto. E faccio un reality, me lo tengo col metodo Flacchi, mi diventa un figurino. Allora, dottoressa Flacchi, quanto libero? Allora, abbiamo un minuto, poi torniamo. Può essere sviluppato in 2 modi. Se siamo in una situazione conviviale offerta, quindi in casa di amici, dove non possiamo fare delle scelte come al ristorante, allora il consiglio è mangiare poco di tutto, evitando, come dicevo prima, di duplicare o triplicare degli alimenti sotto la stessa tipologia. Quindi se mangio un primo, evito il pane, magari certo, controllo proprio la quantità anche del dolce, perché teniamo presente che tutti questi carboidrati sono anche arricchiti di grassi, non certo, è che mangiamo il prodotto in sé da solo. Certo. Quindi cerchiamo di fare piccole porzioni di tutto per però non offendere adesso devo... chi ti ospita. Ecco, stiamo qua, poi andiamo al GR e ritorniamo con la dottoressa Flacchi. Cuore e denari. Dateci il 5 e componete l'800240024 se volete sapere come ritrovare la linea in 5 settimane, giocando proprio ruotando intorno al 5, coniugando a tavola gusto e salute. Ci aiuta la dottoressa Evelina Flacchi, oggi in linea con noi. Dottoressa Flacchi, siamo di nuovo insieme, vero? Buongiorno a tutti, sì. Ecco, allora recuperiamo. 5 pasti nella giornata, 3 principali e 2 spuntini. 5 nutrienti per i 3 pasti principali, che vuol dire che dobbiamo combinare carboidrati, proteine, grassi, minerali, vitamine e fibre. 5 giorni un po' controllati e 2 giorni con un pasto libero. Questo è un po' il riassunto di quanto ci siamo detti, e soprattutto sì, questi 2 giorni con un pasto libero, insomma, ci rallegrano e ci rasserenano molto, perché l'idea ci fanno continuare il percorso nel tempo, no? Perché i miracoli non si fanno in una settimana. In quanto tempo possiamo aspettarci di vedere i primi risultati? 5 settimane o già un po' prima? Ma ovviamente, per fare un discorso serio, bisogna partire da una situazione individuale, quindi chi ha molti chili da perdere, molto grasso, in una situazione di obesità, ha un maggior risultato rispetto a chi ha del grasso localizzato. Ovviamente la prima fase disintossicante depurativa ci aiuta anche a far scendere l'ago della bilancia, ma non è detto che sia grasso quello che noi valutiamo con questa indicazione. Quindi ci sono soggetti che possono rispettare i 2-3 kg al mese, che è quel calo fisiologico consigliato per un dimagrimento sano, come superarlo quando ovviamente i chili da perdere sono molti. Certo, e i primi chili da perdere sono i più facili. Poi esatto, si arriva a un certo punto, e dottoressa Flacchi, qua ho bisogno di lei, in cui, pur seguendo dei regimi alimentari equilibrati, diversificati, sembra che l'ago della bilancia non voglia più andare né su né giù. Cioè, siamo fermi. Che cosa significa? Che segnale è questo? Questo significa che possiamo aver raggiunto un'adeguata percentuale di grasso rispetto alle nostre individuali esigenze, quindi rispetto alla nostra massa magra, quindi alla muscolatura e all'ossatura. Purtroppo in molti casi, soprattutto per noi donne, è la distribuzione del grasso che ci fa insistere nel controllo della dieta, delle scelte alimentari, perché possiamo avere una normale percentuale di grasso ma mal distribuito. Certo. Ecco, allora in questi casi dobbiamo fare delle scelte ancora più localizzate, più mirate sulla scelta degli alimenti, e adeguare anche un'attività fisica mirata a favorire quello smaltimento localizzato. Certo, quindi, dottoressa Flacchi, quando lei mi parla di smaltimento localizzato, e quindi noi sappiamo, noi donne, ecco, noi donne lo accumuliamo, sarà poi un grasso più buono di quello addominale, ma lo accumuliamo tutto nella zona dei fianchi. Alle amiche all'ascolto, oppure nella zona, insomma, delle cosce, alle amiche all'ascolto, quando lei dice bisogna andare su alimenti un po' più specifici e anche su un'attività fisica più mirata, quali indicazioni può dare, quali suggerimenti possiamo trarre dalla dieta del 5? Ecco, teniamo presente che il grasso femminile è ginoide, è quello appunto sulle cosce, sui glutei, e molto spesso favorisce anche la formazione della fantomatica cellulite che purtroppo infastidisce anche donne magre. Quindi dobbiamo valutare situazioni ormonali individuali ovviamente, ma tenere sotto controllo il sale. Ecco, quindi scegliere, anche nel mio libro ci sono ben documentate delle ricette che riducono il sodio. Sì. Teniamo presente che noi dovremmo consumare per mantenere una giusta percentuale di sodio nell'organismo un cucchiaino da tè al giorno di sale, quindi 5-6 grammi. Mm. E purtroppo lo assumiamo anche da alimenti che già lo contengono, certo, dalle fette biscottate fino ai prodotti conservati. Quindi in questi casi dove esiste la predisposizione alla cellulite, la ritenzione idrica, lavorare su alimenti privi di sodio, usare aromi, spezie, mangiare molta verdura, anche questa, siccome è ricca d'acqua, evitiamo di salarla. Certo. Magari usiamo della rucola, dei ravanelli nella nostra insalatona che insaporisce senza arricchirla di sodio. Quindi questi sono alcuni trucchi. Alcuni trucchi flacchi. Il movimento nuoto, ci il vuole. Camminare. Ecco, la bicicletta, ci suggerisce un ascoltatore, fa molto bene. Sì. Abbiamo invitato i nostri amici. E abbiamo Walter che ci chiama da Pesaro. Buongiorno Walter, benvenuto. Buongiorno. Colesterolo buono basso, 30-35 su 150-160. Come l'alimentazione può aiutare a farlo salire? Grazie. Dobbiamo aggiungere nella nostra dieta, questo lei lo avrà già sentito anche dal suo medico, il pesce azzurro, quindi aumentare gli omega 3, evitare i grassi saturi, quindi usare l'olio extravergine d'oliva, evitare il burro, ridurre la quota dei grassi proprio nei nostri alimenti, anche nelle ricette, e usare magari pentole antiaderenti per sfruttare i grassi contenuti già negli alimenti. E soprattutto per favorire l'aumento dell'HDL dobbiamo camminare almeno 40-45 minuti, un giorno sì, un giorno no, per favorire questa produzione endogena del colesterolo che protegge le nostre arterie. Quindi ridurre i grassi che favoriscono l'aumento dell'LDL, di quello cattivo, e usare delle strategie che sono anche consigliate nel libro e portano anche a una riduzione del grasso addominale, ovviamente. Perché nel libro ci sono anche delle ricettine molto, sì, molto interessanti. Sono 70, quindi. Sì, e quindi le sto guardando qua. E sono dagli involtini di verdure grigliate, che questa me la faccio, molto carine. Sì, poi perché per chi magari è goloso, quando vengo io a cena, della tradizione, certo, sì, con Nicoletta. È importante sapere come modificarle per non rinunciare al gusto. Se esistono dei problemi anche cronici di salute, dove ovviamente la riduzione di alcuni ingredienti è essenziale, possiamo sfruttare questi trucchi per non privarci del gusto e della tradizione delle nostre ricette. E qua rispondo a un'amica o un amico non lo so, che ci ha scritto su Facebook per capire se si adatta la sua dieta ai vegetariani. Sì, io ad esempio sono al cartoccio di verdura alla piastra, posso leggerlo, dottoressa? Sì, Flacchi, sì, come che no. Mi piace molto, perché magari diamo qualche spunto. Sono le 11:18, così anche Filippa Oreggi un po' si fa la bocca a questo nuovo modo di mangiare. 100 grammi di piccoli pomodori, 100 di zucchine, 200 grammi di falde di peperoni colorati, ce li abbiamo, 100 grammi di cipollotti freschi o di cipolla, tutto rotondo, ok, faccio. 30 grammi di olive taggiasche, 2 spicchi d'aglio, chi li ama, 2 pizzichi di origano, 2 cucchiai d'olio extravergine d'oliva, sale e quanto basta. Poco se abbiamo un po' culotto abbondante, bello morbido. A me piace personalmente. Comunque, che cosa si fa? Si tagliano i pomodori a spicchi, si riducono a tocchetti tutte le altre verdure, si condiscono un po' con sale, aglio tritato e olio, si chiudono nel cartoccio. La cottura al cartoccio, dottoressa Flacchi, lei la suggerisce spesso perché è una cottura che cioè, intrappola tutti gli aromi e i gusti e nello stesso tempo è leggerissima. Incartocciamoci, giusto? Sì, esatto. Poi si raccolgono le verdure sull'alluminio, si aggiungono olive, origano, si poi coprono con il secondo foglio, si fa un bel cartoccino leggermente arricciato, si appoggia il cartoccio sulla piastra ben calda per 12 minuti, puoi girarlo e tenerlo per altrettanto tempo dall'altra parte, si apre, eccolo qua, un pizzico di origano. La ricetta di oggi, io ve l'ho letta, l'ho presa direttamente da questo libro, ma ne ho presa una leggera leggera perché ci sono anche delle ricette di quelle che piacciono al nostro Filippo Aureggi, molto più all'apparenza di calorica, di sostanza, dottoressa, che lei molto con grande abilità rende leggera senza rinunciare al gusto, dottoressa Flacchi. Sì, infatti. Quindi possiamo sicuramente basarci anche su una dieta vegetariana. Io ho creato la settimana, la terza tappa, latto ovo vegetariana, l'ove, ecco, per variare anche nelle settimane la scelta degli ingredienti e per soddisfare anche chi ha queste abitudini, certo, alimentari che noi rispettiamo e che ciascuno deve trovare un po' il suo equilibrio. Esatto. Aggiungiamo naturalmente anche la curcuma perché ci piace, è un suggerimento che arriva anche da un nostro ascoltatore, lo stesso che ha suggerito alla bicicletta. Dottoressa Flacchi, noi le diamo un bel 10. Complimenti. E io batto il 5 con tutti voi. Grazie, un abbraccio alla dottoressa Flacchi. Se volete saperne di più, la dieta del 5 ritrova la linea in 5 settimane. Noi rubiamo la ricetta delle verdure al cartoccio che vi postiamo con l'autorizzazione della dottoressa Flacchi, certo, che rubo adesso sulle nostre pagine. Grazie, alla prossima dottoressa, buona giornata. Grazie a voi. Allora, ti faccio sentire una cosa. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Allora, forse a molti, sì, mi rendo conto che saltiamo di palo in frasca, però è necessario fare anche questi... Anche lui, ma scusatemi, sono dimenticata. No, mi sembra si mantenga anche molto in forma anche il signor Draghi, insomma. È una frase appunto che molti ricorderanno, quella che Mario Draghi pronunciò qualche anno fa, anche se quella che appunto abbiamo risentito forse potrebbe sembrare una delle tante pronunciate in una delle tante riunioni della Banca Centrale Europea. D'altronde ne abbiamo una al mese di queste riunioni e il meeting è sempre seguito dalla conferenza stampa del Presidente. Quella che invece vi abbiamo riproposto è la parte che gli operatori dei mercati finanziari non dimenticheranno mai più del discorso di Mario Draghi dell'estate del 2012. In un momento in cui la vita dell'euro sembrava seriamente in pericolo, sull'orlo del baratro, del fallimento, della rottura, è stata un'estate veramente difficile. Era esattamente il 26 luglio del 2012, vi traduco in italiano quello che Draghi disse: nei limiti del nostro mandato non lasceremo nulla di intentato per salvare l'euro e credetemi, ciò che faremo sarà abbastanza. L'Italia era reduce dall'autunno più grigio degli ultimi tempi, cioè quello in cui lo spread fra Italia e Germania, il differenziale di rendimento fra il titolo di Stato decennale italiano e quello tedesco, arrivò addirittura a 575 punti, mentre, pensate, il rendimento sul bot ad un anno toccò il 9%. Perché ho richiamato proprio questa circostanza? Perché la voglio mettere a paragone con quello che invece sta succedendo in questi giorni. Ieri c'è stata un'altra asta del Tesoro italiano in cui sono stati collocati quasi 7 miliardi di euro di bot ad un anno e il rendimento della stessa scadenza non solo è scivolato a livelli bassissimi ma addirittura tocca un record ogni volta in negativo. Il rendimento adesso di questa scadenza è a meno 0,35%. Nel 2012 era il 9%. Pensa tu, sembra passata un'era geologica in questi 5 anni. In realtà in questo periodo ci sono altri segnali interessanti che stanno arrivando dal mercato obbligazionario perché ci sono vendite copiose su molte scadenze. I tassi di mercato si stanno rialzando. Che cosa sta succedendo? Investire informati. Proviamo a capirlo stamattina nella nostra scuola di risparmio. Abbiamo chiamato a rapporto un esperto di mercato obbligazionario, Giovanni Radicella, responsabile investimenti obbligazionari di Arca Fondi SGR, che salutiamo. Benvenuto ad Investire Informati, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori. Abbiamo anche l'opportunità, se volete, per questi 5-6 minuti di tempo che dedicheremo appunto a Giovanni Radicella, di sentire, se volete, le vostre domande all'800 24 00 24. Dottor Radicella, 5 anni dopo il Whatever It Takes, in questo lustro è successo davvero di tutto, ma soprattutto sono state le azioni delle banche centrali a rappresentare il grande tema che ha guidato i mercati, ma anche le scelte di risparmio e di investimento di famiglie ed imprese. C'è un po' di nervosismo sui mercati però da qualche giorno, forse se ne parla un po' meno rispetto a quanto non se ne parlasse in quel momento là storico, quello del 2012, però questa tendenza di nervosismo delle ultime settimane ancora una volta è stata determinata dalle parole di Mario Draghi, quelle che ha pronunciato in Portogallo a Sintra un paio di settimane fa. Qualcuno in realtà le ha interpretate forse in maniera un po' troppo frettolosa, però partendo anche da quella circostanza, ci spiega cosa sta accadendo in questi giorni fra le obbligazioni governative europee, dove ci sono i temi di maggiore nervosismo, e poi cercheremo di capire anche che tipo di effetti si potranno manifestare fra i risparmiatori. Radicella. Grazie. Per mettere nella giusta luce la situazione, forse appunto conviene richiamare perché effettivamente i tassi erano così alti quando Draghi 5 anni fa pronunciò quelle parole. I tassi erano alti in quel momento lì sul debito pubblico italiano perché c'era una crisi di fiducia sullo Stato italiano. Si stava cominciando ad insinuare l'idea che fino a quel momento era in qualche modo molto nella retroguardia dei cervelli, delle menti, degli investitori, che uno Stato potesse fallire. E quindi effettivamente i titoli di Stato italiani soffrivano di questo e i rendimenti schizzavano alle stelle, per cui Mario Draghi fu costretto a dire perentoriamente che avrebbe messo in piedi una misura per proteggere da questa eventualità, che avrebbe disgregato l'euro. E infatti annunciò in quel momento una misura che poi ha avuto la fortuna di non dover attuare, perché in quel contesto lì, subito dopo questo annuncio informale fatto a fine luglio, in un successivo consiglio della Banca Centrale Europea mise nero su bianco quali sarebbero state le misure da adottare quando sarebbe stato necessario intervenire, il cosiddetto programma di emergenza di acquisto di titoli di Stato, che doveva avvenire sotto determinate condizioni quando lo Stato si approssimava ad una situazione di quasi insolvenza. E per fortuna è bastato solo l'annuncio di queste misure e non è stato necessario intervenire, in quanto i mercati hanno creduto alle parole di Draghi, che ha si è costruito una reputazione e una credibilità in tutti questi anni, e effettivamente è stato un caso di successo di credibilità alle estreme conseguenze, dove è bastato soltanto l'annuncio e non effettivamente poi implementarlo. Poi però adesso, negli anni successivi, ecco, altre misure sì, le ha attuate, e certo, sono tutte racchiuse in questo acronimo di cui abbiamo parlato tante volte, esatto, il quantitative easing, questo programma di acquisto di titoli, esatto, di Stato e di obbligazioni di vario genere appunto sul, esatto, mercato. Allora, ritornando ai giorni nostri, il nervosismo di questi giorni invece a che cosa è dovuto? Esatto, il quantitative easing è stato necessario per risolvere un altro problema, cioè la stagnazione economica, quindi basso tasso di inflazione e bassa crescita. Adesso il nervosismo che osserviamo sui mercati, il rialzo dei tassi, ha un motivo diverso da quindi quello del 2012. Non è una crisi di fiducia nella solvibilità di uno Stato, ma è, se vogliamo, una causa meno patologica e più forse anche benigna, vale a dire il fatto che finalmente magari le condizioni economiche stanno volgendo al bello, quindi magari è il risultato proprio dell'applicazione di quelle misure che hanno o stanno per risolvere il problema della stagnazione economica, perché magari l'inflazione sta ritornando verso livelli più fisiologicamente positivi dell'1%, anche se il target dovrebbe essere il 2%, e anche la crescita effettivamente è stabilmente positiva e, facendo la media dei paesi europei, poi c'è chi cresce di più, chi cresce di meno, come sappiamo molto bene anche noi italiani, effettivamente è vicina ad un numero quasi normale, poco sotto il 2%. Quindi il rialzo dei tassi di questi giorni ha un motivo completamente diverso e, se vogliamo, più benigno. Certo, quindi riporto peraltro un dato che ha richiamato un collega del Sole 24 Ore, Max Cellino, analizzando la situazione di questi giorni molto accuratamente sulle pagine del quotidiano da qualche giorno a questa parte, ha definito le ultime due settimane in realtà, con parole molto severe, nere, perché sono stati quasi 200 miliardi di euro andati in fumo, dice lui, fra titoli governativi, titoli corporate, quindi obbligazioni emesse dalle aziende, e high yield, alto rendimento a tasso fisso dell'Eurozona. 200 miliardi in poche settimane, dottora Di Cella, sono tanti, quindi le chiedo, secondo lei stiamo assistendo a uno scoppio di una bolla del mercato obbligazionario che comunque è stata preannunciata da un po'? In molti se l'aspettavano, quindi bisogna anche capire perché adesso tutti si dichiarino così sorpresi, anche un po' spaventati. E stiamo in realtà assistendo, come dire, ad un momento fisiologico di ridimensionamento degli investimenti sul mercato obbligazionario, o lei veramente intravede invece fattori di preoccupazione che potrebbero farci passare un'altra estate difficile come quella del 2012? Ma io direi due cose. Innanzitutto bisogna stare attenti a non generalizzare, quindi effettivamente quel numero che lei ha citato, molto alto in termini di miliardi, ha riguardato una parte molto particolare e segmentata del mercato obbligazionario, cioè quella dei titoli di Stato. Se guardiamo invece alle performance, ai rendimenti fatti da inizio anno di altre asset class, di altri titoli obbligazionari di altro tipo come corporate bonds e high yield, questi hanno potuto attutire questi shock negativi dei titoli di Stato obbligazionari, in quanto grazie al cuscinetto di rendimento che offrono, grazie anche alla compressione di questo cuscinetto, hanno portato a dei capital gain. E noi che gestiamo portafogli intendiamo... Che sono guadagni. Che sono guadagni, esatto. Quindi se si traducono quei 200 miliardi che ha detto lei come performance di un indice obbligazionario solo di titoli di Stato... Significa che un portafoglio di titoli di Stato ha perso in media circa l'1,3% da inizio anno. In realtà portafogli ben diversificati di obbligazioni societarie e high yield hanno un rendimento positivo, quelli degli high yield addirittura molto positivi, siamo nell'ordine del più 3, più 4%. Sicuramente il mercato obbligazionario dei titoli di Stato non è nuovo a questi shock di aumento dei tassi, ne abbiamo avuto uno proprio già sui titoli di Stato tedeschi alla fine della primavera del 2015. In quel momento lì il tasso di Stato tedeschi salì da 0,10 fino all'1%, adesso siamo di nuovo poco sotto 0,60, da inizio anno abbiamo ballato un po' tra 0,20 e 0,40, adesso abbiamo superato questa soglia psicologica dello 0,40 e stiamo nella seconda metà del primo punto percentuale. Però sono shock che avvengono in periodi di tempo molto limitati e che possono avere implicazione sulla performance di un portafoglio non diversificato tra vari asset class, tra vari titoli obbligazionari, anche molto pesanti. Certo. Appunto, questo è il motivo per cui noi raccomandiamo sempre la diversificazione. Chiaramente l'approccio con cui Radicella ci parla è quello di un grande investitore che manovra flussi di denaro considerevoli, però insomma sono riflessioni che possiamo sicuramente trasferire anche alle nostre scelte di risparmio e di investimento. Dottor Radicella, lei ha altri 5 minuti di tempo per rimanere con noi? Certo. Io vado a raccontare adesso quello che succede stamattina in borsa, torno con lei per fare un'ultima riflessione dedicata ai piccoli risparmiatori, perché per gli italiani rinunciare al reddito fisso, ad investire in titoli di Stato è proprio qualcosa da considerare come uno scenario impossibile, per cui dobbiamo cercare di capire allora quali sono i migliori strumenti per poter rimanere in questo ambito di investimento a cui l'italiano è tanto affezionato, e soprattutto ci dobbiamo preparare a qualche altro momento di turbolenza un po' accesa, siccome uomo avvisato mezzo salvato, allora vi raccomanderemo un po' l'approccio giusto per poterci preparare a qualche altro momento di volatilità. A tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Eccoci ritrovati in diretta questa mattina per Investire Informati. Stiamo un po' provando ad analizzare quello che sta accadendo da qualche settimana a questa parte sul mercato obbligazionario, dove c'è un po' di nervosismo. Gli operatori rassicurano e siamo ancora nell'ordine del movimento fisiologico. D'altronde le banche centrali stanno provando a ridimensionare tutta la loro politica fortemente espansiva messa in campo negli ultimi anni per affrontare la crisi, provare a risostenere la crescita, combattere la tendenza deflazionaria. attiva. Negli Stati Uniti hanno ricominciato ad aumentare i tassi di interesse, in Europa non è ancora possibile. Detto questo, però, il quantitative easing, questo programma di acquisti di titoli di Stato ed obbligazioni messo in campo da Mario Draghi da un paio d'anni a questa parte, ha già ricominciato a tirare remi in barca, perché da marzo ad aprile in realtà già si acquistano 10 miliardi in meno al mese di appunto asset. Quindi anche questo sta determinando questo movimento di nervosismo, come dicevo prima, tra le obbligazioni. Ma l'ultimo commento che assegno a Giovanni Radicella, responsabile investimenti obbligazionari di Arca Fondi SGR, è rivolto al piccolo risparmiatore italiano che chiede protezione, naturalmente guarda all'investimento in titoli di Stato sempre con un'ottica prudente di conservazione del proprio capitale, e in realtà in questo periodo non si conserva quasi nulla, perché anzi il capitale investito si erode, visto che molte scadenze hanno anche rendimenti negativi. Insieme alla mia domanda, Radicella, ci metto anche quella di un'altra reporter per noi, che è Soraya da Roma, che ci vuole fare una domanda. Le chiedo brevità. Soraya, benvenuta, grazie. Volevo solamente sapere per quale motivo una persona, invece di tenere i contanti in banca, compra i titoli con interessi negativi. Non riesco a capire. Esatto, Sora. Infatti, anche perché noi ci domandiamo spesso come mai le aste del tesoro italiano siano in realtà così ricercate, no? E gli operatori, gli investitori portano a casa anche questi investimenti, dottor Radicella, pure con il rendimento negativo. Vuole partire da Soraya o dalla mia domanda? A suo piacere. Parto dall'ultima. In effetti sembra un controsenso avere un investimento a tassi negativi, e sicuramente per un piccolo risparmiatore è effettivamente molto difficile sottoscrivere un investimento di questo tipo da un punto di vista psicologico. Per il piccolo risparmiatore si può ancora giustificare se effettivamente l'alternativa, il tenere ampie somme di contanti, non sia efficiente da un punto di vista proprio di costi e di comodità, quindi sicuramente anche da un punto di vista del piccolo risparmiatore si può ancora capire anche questo tipo di investimento. Ma non dimentichiamo che molti di questi titoli a rendimento negativo finiscono nei portafogli degli investitori istituzionali come noi, i quali li usano anche per altri fini. Esigenze di tesoreria. Esigenze di tesoreria, ma anche di collaterale, e a volte quando appunto anche degli investitori stranieri, come per esempio investitori giapponesi, che a loro volta nel loro mercato fronteggiano tassi molto negativi da molto più tempo di noi, hanno convenienza a comprare titoli di Stato europei anche a basso rendimento o anche negativi, perché poi riportandoli nella loro valuta con meccanismi di copertura del cambio ottengono in realtà un tasso di rendimento privo di rischio maggiore dei loro titoli di Stato domestici. Quindi è un discorso da non guardare tanto in assoluto per noi investitori istituzionali, che ovviamente poi investiamo i soldi degli risparmiatori che ci riaffidano, ma di opportunità relative tra mercati. Per quanto riguarda la ricerca di protezione, l'italiano ancora affezionato al titolo di Stato, dove va in questo momento? E in un minuto, se ci dà la ricetta per affrontare un nuovo possibile momento di turbolenza. Avremo ancora la protezione, la rete di protezione delle banche centrali, ma pian piano questa si riduce, e quindi come dobbiamo guardare in prospettiva a questa fase? Sicuramente stare su titoli a scadenza non molto alta, anche se il rendimento è contenuto, perché appunto sui titoli a scadenza più elevata i movimenti di prezzo a seguito di variazioni dei tassi sono molto molto più dannosi, e quindi invece con titoli a bassa scadenza si può permettere di aspettare, temporeggiare e investire poi successivamente in tassi più elevati. Per capire bene peraltro questo, basti vedere quello che è successo con le ultime emissioni del Tesoro italiano sul titolo a 30 anni e a quello a 50 anni, che sono state operazioni finanziarie che hanno un certo spirito, una certa logica per il Ministero dell'Economia, ma per il piccolo risparmiatore invece l'effetto è tutt'altro. Certo, e poi diversificare non soltanto in titoli di Stato, ma anche in titoli obbligazionari di altra natura, come quelli societari o come quelli ad alto rendimento. Senta, invece un titolo di Stato indicizzato all'inflazione, in prospettiva, secondo lei è una buona scelta? Può andare bene, perché effettivamente l'inflazione sta risalendo e questi titoli proteggono da shock inflattivi. Tuttavia, se poi il motivo per cui i tassi salgono è quello ancora più benigno, cioè che migliorano le prospettive di crescita, neanche i titoli indicizzati all'inflazione sono esenti da possibili da perdite in conto capitale, perché a quel punto sarà il tasso di crescita reale dell'economia ad aumentare, e e anche i titoli indicizzati all'inflazione possono soffrire di questo. Quindi i titoli indicizzati dall'inflazione proteggono da un aumento dell'inflazione, ma se migliorano le prospettive di crescita in generale dell'economia, anche aumentano loro possono anche soffrire, tassi, certo. Ma ben venga comunque un miglioramento, esatto, delle prospettive economiche. Parliamoci chiaro, uno scenario che auspichiamo con grande vigore. Esatto. Dottora Di Cella, grazie per la sua chiarezza e per essere stato con noi, ci risentiamo presto. Grazie a lei. Grazie. Buona giornata. Grazie. Com'è che ci si sente con le tasche leggere? E beh, certo che se c'è il buchino in tasca scappano tutte le monetine, Nicoletta. Altro che. Infatti, no, io sai che c'ho? Ho uno spolverino, un giubbettino di mezza stagione che è già al buco. Sai quanti euro ci trovo ogni tanto dentro il giubbetto? Sento che pesa un po' di più, un piccolo salvadanaio. Ma vedi, guarda che quante ne so. Che le tasche siano leggere, un po' vuote, lo possono lamentare in tanti, il vero problema appunto è se ci rendiamo conto che sono bucate. È una metafora sempre vincente quella delle tasche quando si parla del nostro rapporto con il denaro e quando si parla anche di educazione finanziaria. Questa è la metafora che hanno scelto due giovani compagni di studi, Giulio e Salvatore, che hanno dato vita ad una nuova community che vuole creare uno spazio di confronto e approfondimento proprio su questi temi. Questa comunità si chiama Tasche Bucate, taschebucate.com, e noi oggi abbiamo in collegamento uno dei due fondatori, Salvatore Grisanti, che salutiamo. Salvatore, benvenuto e buongiorno. Ciao Deborah, ciao Nicoletta, ciao. Buongiorno a tutti. Senti, ma per inventarvi questa community l'avete fatta un po' alla Steve Jobs, vi siete chiusi dentro un garage, è una startup che ha anche questa, come dire, questa genesi oppure no? Allora, guarda, proprio dentro un garage no, però in un appartamento sì. diciamo quelli che, da studenti condiviso praticamente. Diciamo che è iniziata da studenti, ora da lavoratori, però comunque sì, sempre un appartamento in condivisione. Certo. Cos'è Tasche Bucate, Salvatore? Come vi è venuta questa idea? Allora, sì, in maniera molto semplice, io e Giulio ci siamo conosciuti, come avete detto voi, durante l'università. E ci troviamo spesso, anche ora che siamo dei lavoratori, a confrontarci su alcune tematiche legate al mondo finanziario a cui siamo legati sia per interessi che per motivi di studio. Una sera, durante una delle nostre chiacchierate, ci siamo ritrovati a commentare l'ennesima statistica che ci vede, parlo per noi italiani e per quelli un po' più giovani, disinteressati a tutte le tematiche che riguardano il mondo finanziario, il risparmio, più in generale l'educazione finanziaria. Per cui ci siamo proprio detti, ma cosa possiamo fare noi? Cosa possiamo fare? Sì, perché comunque pensiamo che le statistiche non servano soltanto a criticare o accusare qualcuno, ma sono dei dati da cui partire per delle, certo, riflessioni. Ma poi in realtà, Salvatore, adesso ti chiedo, devo andare a sentire il traffico, ti chiedo di rimanere ancora un paio di minuti con noi. In realtà noi abbiamo avuto modo di commentare qui a Cuore Denari insieme a Nicoletta anche il grande censimento che la Banca d'Italia ha fatto a gennaio su tutte le iniziative di educazione finanziaria che si fanno in Italia. Il tema è che se ne fanno tante, che le persone non le conoscono perché sono molto frammentate in giro per l'Italia, proposte da interlocutori di ogni tipologia, per cui in realtà è che stiamo provando ad andare verso una razionalizzazione di tutti questi percorsi. Comunque ben vengano le iniziative che arrivano dal mondo dei giovani, perché poi è anche lì che bisogna parlare bene e correttamente, in maniera trasparente, di questi argomenti, perché è da lì che parte tutto, dal filone educativo. Salvatore, un minuto di tempo, sentiamo il traffico, poi ritorniamo con te. Cuore e denari. Ho pochi minuti di tempo per chiudere l'approfondimento sulla vita di Tasche Bucate e poi presentarvi un libro. Salvatore Grisanti, allora raccontaci in due minuti, spendili al meglio, come funziona la vostra community che avete appena fondato, come può interagire il lettore con voi, cosa vi aspettate da questa avventura? Ok, allora innanzitutto la nostra community non parte dalla conoscenza, quello che fanno principali blog di educazione finanziaria o comunque gli argomenti finanziari che ci sono nel nostro paese, ma parte dalla consapevolezza, cioè la consapevolezza che quotidianamente compiamo delle scelte che riguardano la nostra vita finanziaria, però non ce ne rendiamo conto, vuoi perché utilizziamo delle etichette diverse, vuoi perché magari preferiamo riferirci ad argomenti che pensiamo di saper possedere e di conoscere meglio. Noi abbiamo un blog che diciamo è il punto di raccolta di tutte le nostre idee, abbiamo anche delle pagine sui social, su Facebook o su Twitter. Quelli non ce li possiamo mai far mancare, sì, adesso. Ovviamente, per facilitare la comunicazione. Noi siamo disponibili al confronto, anzi vorremmo che ci fosse anche da parte dell'utente un'interazione con noi, diciamo che dei risultati già li stiamo iniziando a ottenere. soprattutto dalle persone che noi abbiamo considerato come target, quindi cominciamo a ricevere dei feedback anche dalle persone che al momento per le statistiche sono ignoranti, tra virgolette, per esempio, sì, nel senso che ignorano. Esatto, che sì, non sanno. Sì, nel senso che ignorano gli argomenti, ci mancherebbe altro. Ignorano gli argomenti dell'educazione finanziaria o comunque non sono interessati alle tematiche legate al risparmio. Benissimo, allora in bocca al lupo per la vostra avventura, facci sapere, bravi intanto, facci sapere come va, magari fra qualche mese rifaremo con voi un punto della situazione e vedremo se la vostra comunità si è allargata ulteriormente, vi daremo una mano se possibile. Grazie a Salvatore Grisanti per essere stato con noi e buona giornata. Grazie, buona giornata a voi. Nel nostro lavoro si perde e si guadagna, ma di certo bisogna saper rischiare. Perché rischiare è l'unico modo per vincere. E io voglio vincere. Non intendo certo passare la vita a timbrare il cartellino. Morirò miliardario o povero in canna. Non esistono vie di mezzo. Non per me. Ed esiste un solo modo per farlo. Speculare su qualsiasi cosa. Perché speculare è vivere. Allora, noi abbiamo preso la quarta di copertina di un libro, ma mi raccomando, con tutte le raccomandazioni che facciamo sempre, non approcciatevi al mondo del risparmio e dell'investimento con questa modalità, lasciamola ai professionisti. Comunque, Nicoletta, per apprendere qualche rudimento di finanza e mercati finanziari, ti propongo un bel romanzo. Mi piace. Sei contenta? Molto. Un noir leggerò. È nelle tue corde? Sì. Magari scritto da un giornalista simpatico giovane che vive a Parigi? Molto. Ecco, noi lo salutiamo, è Valerio Baselli. Valerio, benvenuto, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ci sono rimasti appena 3 minuti di tempo per raccontare anche in questo caso il tuo libro, ma saranno più che sufficienti per invogliare i nostri ascoltatori a portarlo sotto l'ombrellone. Intanto tu, ricordiamolo, sei ovviamente italianissimo, laureato in economia e finanza internazionale, vivi a Parigi dove lavori come giornalista finanziario per la società Morningstar, che voglio raccontarlo brevemente, il più grande gruppo al mondo ad emettere le pagelle per i fondi di investimento. Voi attribuite i rating e le stelline a appunto a questi strumenti di risparmio e di investimento. Prima o poi il giornalista si mette sempre a fare lo scrittore, raccontaci la storia senza arrivare ovviamente al finale, così invogliamo i nostri ascoltatori a portarlo in vacanza. Valerio. Sì, esatto, insomma bisogna raccontare di cosa parla senza poi svelare troppo, dire. È comunque esatto, un giallo, un giallino. Sì, allora è un romanzo ambientato nel mondo della finanza, ci sono due protagonisti principali, uno è un matematico che si ritrova a suo malgrado a lavorare nel mondo della finanza nel settore del trading algoritmico e il secondo è invece un trader, che è appunto un trader classico che lavora per una banca finanziaria, per molto, una banca molto cinico, molto aggressivo, esatto, molto cinico, molto aggressivo, vuole avere successo, vuole fondare il proprio hedge fund personale e questi due personaggi appunto diventano colleghi prima, amici, sono due persone molto diverse pur essendo coetanei, quindi della stessa generazione. E attraverso la storia, che appunto non possiamo svelare, si parla di come funziona un certo aspetto del mondo finanziario, in questo caso del trading, e sullo sfondo di questi ultimi anni, quindi la crisi greca, le speculazioni tipiche del trading, no? Quindi sui mercati delle materie prime, delle valute. Ma anche sulle obbligazioni, tra l'altro ne abbiamo parlato anche nella prima parte del programma. Esatto, c'è la storia di questi due personaggi che evolvono, che cambiano, che vivono delle esperienze fino ad arrivare a un finale che non possiamo... È un romanzo adatto anche ad un lettore non esperto di mercati finanziari e di dinamiche finanziarie, Valerio? Assolutamente sì. Io quando parlo con i miei amici o con altre persone che mi chiedono informazioni su questo libro, dico sempre: non bisogna essere dei chirurghi per apprezzare Grey's Anatomy o Dr. House. Bravo Valerio, questo è stato il tocco. Bravo. Più o meno è la stessa cosa. No, bisogna che lo impersoni Patrick Dempsey, ecco il chirurgo principale, la regola è quella. Per me va bene, se vogliono fare un film per me va bene. Tratto dal tuo romanzo. Quindi ci si può appassionare a questi argomenti anche senza averne molta, come dire, dimestichezza e padronanza. Assolutamente, perché sono comunque spiegate le pagine dedicate agli strumenti finanziari, ai mercati e via dicendo. Prima di tutto sono una piccola parte del romanzo. e comunque sono spiegate in modo molto molto certo. molto semplice e fruibile. No, tra l'altro nella prima parte, per esempio, stavo ragionando al fatto che tu prima hai detto uno dei due protagonisti lavora nel settore degli hedge fund, uno dico ma che cosa sono? Ad un certo punto Daniele, che è il matematico e di finanza non sa niente, nel libro dice ho capito che gli hedge fund sono, quindi ecco c'è anche questa modalità scelta per spiegare il gergo finanziario. Valerio Baselli, autore di Tutto quello che non serve, perché il titolo non l'ha neanche detto, edito da Aug Edizioni, lo regaleremo ai nostri ascoltatori. Valerio, intanto tu in bocca al lupo, perché tra l'altro ho fatto anche l'intervista con un po' di febbre, pensa che bravo questo ragazzo. Bravo, riposati un po'. Grazie, noi intanto torniamo domani, a tutti buona giornata.